Vendo tutto di Matteo Caccia. Il telefono cellulare, la TV, le vacanze già prenotate e le guide per andarci, i quadri appesi alle pareti, i vecchi dizionari, gli oggetti regalati e quelli comprati, quelli ancora da mettere in vendita e quelli già all'asta. Tutto, vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato, dopo 4 anni insieme mi ha lasciato. Capita, lo so, succede a tutti ed è toccato anche a me. Io però questa volta ho deciso, mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita, io ne inizio una nuova. Venite a comprarvela, la vendita è aperta. Oggi vendo un quadro. Sono le 16:07, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, vi ringrazio per essere all'ascolto se ci siete e per rimanerci se ci rimanete. E ieri ho mandato un pezzo di un film, che è un film che ho visto 2 sere fa al cinema e che sembrava proprio giusto per questo programma. Visto che mi avete chiesto di cosa si trattava, facciamo prima a farlo risentire. Quanto è pesante la vostra vita? Immaginate per un attimo di avere uno zaino sulle spalle. Ora dovete riempirlo con tutte le cose che avete nella vita. Cominciate da quelle piccole, gli oggetti sugli scaffali, nei cassetti, i gingilli, oggetti da collezione. Sentite come aumenta il peso. E ora le cose più grandi. Il divano, il letto, il tavolo da cucina. Infilate tutto dentro, la macchina, pigiatela bene. La casa, tutto dentro quello zaino, infilate tutto bene dentro. George Clooney consiglia di infilare tutto quanto bene dentro ad uno zaino. Il film si chiama Tra le nuvole, è nei cinema in questi giorni, è un film che vi consiglio di andare a vedere. Lui è uno che nella vita licenzia, di mestiere licenzia le persone, e tiene delle conferenze in cui dà consigli come questi, cioè pigliare tutto, metterlo nello zaino e poi va avanti. Ora provate a camminare. È difficile, vero? Questo è quello che noi facciamo quotidianamente. Ci appesantiamo a tal punto da non riuscire a muoverci. E state pur certi, il movimento è vita. Bene, adesso io darò fuoco allo zaino. Che cosa preferite togliere? Anzi, lasciate bruciare tutto e immaginate di svegliarvi domattina senza niente. È quasi euforizzante, vero? È abbastanza euforizzante, ve lo assicuro. Sono le 16:09, questa è Radio 24. Io nello zaino ci ho infilato il quadro che vendo oggi e di cui a breve vi racconterò la storia, perché tutti gli oggetti hanno una storia e la loro storia è un po' anche la nostra. Questo quadro però è un quadro di cui oggi cercherò in questo ardito esperimento radiofonico di descrivervelo per radio, come è fatto tuttora, visto che lo vendo. Questo quadro era appeso esattamente nel punto di casa mia che io vedevo aprendo gli occhi la mattina dal letto. Cioè la prima cosa che vedevo era quel quadro lì. Questa mattina quindi è stato particolare, direi, il fatto di svegliarmi e vedere un pezzo di parete bianca. Quindi a mo' di conforto mi piacerebbe fare una cosa molto semplice. Se voi avete un cellulare tra le mani o semplicemente ci riuscite ad arrivare facilmente, 349-238-6666. Visto che io ormai ho una parete bianca davanti agli occhi quando apro gli occhi la mattina, e aprire gli occhi la mattina è un momento molto importante della giornata, sarete d'accordo con me? Mi scrivete qual è la cosa che vedete appena aprite gli occhi, appena vi svegliate la mattina. 349-238-6666. Che sia appunto un quadro, una foto, che sia vostra moglie, il vostro compagno o il libro che avete appoggiato sul comodino perché dormite sul fianco sinistro verso il comodino. 349-238-6666, la prima cosa che vedete la mattina quando aprite gli occhi, visto che ormai io ho solo una parete bianca, perché appunto questo quadro non c'è più, però lo potete vedere, chiaramente è sul sito radio24.it. In particolar modo però è cominciata una bagarre su Facebook, sul profilo che è Matteo Caccia Vendo Tutto, perché chiaramente ognuno nei quadri ci vede un po' quello che gli pare, giusto? Per cui dice Silvia, mi scrive: io non ci vedo un'espressione seriosa nella ragazza del quadro, ci vedo una languida stanchezza. Siccome la ragazza del quadro è al telefono, Stefano mi scrive: ti direi che sta parlando ad un uomo dopo una serata estiva. Invece Gabriele addirittura proprio si fa un trip tutto suo, sta parlando al telefono con il compagno che l'avvisa che sta partendo, forse dall'ufficio, per passare a prenderla e uscire a cena. Ma lei, la ragazza del quadro, è stufa di questa storia e di quest'uomo più innamorato di sé che di lei. Avesse il coraggio di mollarlo, ma lei lo sa che un giorno, forse domani o forse tra un mese, lo mollerà, venderà tutto e ricomincerà da capo. Il profilo Facebook è Matteo Caccia Vendo Tutto, ci potete arrivare tramite il sito radio24.it, in modo che così vedete la ragazza del quadro e se avete voglia mi raccontate, secondo voi, che cosa sta dicendo. Ma visto che io di fatto non sono in grado di disegnare, non sono nemmeno in grado di decifrare che cosa c'è nei quadri, oggi ho voglia di parlare con gente che i quadri li fa. perché lo fa di mestiere o perché semplicemente gli piace disegnare, che siano disegni, che siano dipinti, che siano ad olio, ad acquarello o a matita, che li facciate la sera per quando tornate da lavoro oppure ci abbiate un laboratorio e sia il vostro lavoro, 800240024, mi chiamate e mi dite qual è l'ultima cosa che avete disegnato. Poi ci penso io a chiedervi perché l'avete fatto e che cosa vuol dire. 800240024, a tutti quelli che sanno disegnare, che hanno questo privilegio e hanno voglia di raccontarmi qual è l'ultima cosa che hanno disegnato. Veniamo però al mio quadro, andate a vederlo, radio24.it, e da lì Facebook, sentite anche la sua storia. Il quadro. La ragazza al telefono, stampa acrilico su cartoncino, colori nero su sfondo bianco. Dimensioni stampa, altezza 53 cm, lunghezza 45 cm. Dimensioni cornice, altezza 2 cm, profondità 4 cm, colore argento. Autrice Lisolotte Watkins, numero seriale 41 su 200 copie. Perfetta su pareti bianche e spoglie e per chi cerca una compagnia silenziosa. Base d'asta Vendo Tutto, 99 centesimi. Per informazioni e foto, www.radio24.it. Per la diretta, 800240024. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. È successo un giorno di qualche primavera fa. Credo fosse la metà di aprile. In uno di quei sabati pomeriggio in cui non sai se è meglio startene a casa a farti una bella dormita oppure uscire per fare una passeggiata, così giusto per goderti il sole un po' più caldo e farti venire fame per la cena, perché arrivare all'ora di cena senza essere affamati mi sembra sempre una spia di quanto in quella giornata tu non abbia combinato niente. Credo sia un retaggio del catechismo. Tant'è, quel sabato pomeriggio sono uscito da solo perché da solo vivevo e non avevo ancora una fidanzata da portare con me. Ho percorso delle strade di Milano che, nonostante ci viva da quasi 15 anni, non conoscevo, per il semplice fatto che in Vespa o con i mezzi pubblici non ci si passa mai. Dopo quasi un'ora di cammino mi sono trovato in una piccola piazza, dalle parti di via Torino, in pieno centro a Milano, in cui stranamente non ci sono negozi né bar, ma solo case, cortili e una vetrina che sembra quella di un calzolaio o di una merceria, ma che in realtà è una piccola galleria d'arte. Ammetto, io non sono affascinato dall'arte contemporanea. O meglio, non ho ancora capito se non mi piace perché non la capisco o perché non c'è niente da capire. Però quella galleria aveva un'aria strana, quasi confortevole. Non sembrava emanare lo snobismo radical che di solito tutti quelli che hanno a che fare con l'arte dimostrano. Ho aperto la porta e ci sono entrato. La signora che gestiva la galleria avrà avuto più o meno 60 anni. Era molto elegante, molto gentile. Sembrava una di quelle donne che non hanno bisogno di lavorare per vivere. E quindi, in tutto quello che fanno, dimostrano un distacco, una leggerezza che trovo sempre molto affascinanti. Mi ha accolto come se non vedesse nessuno da mesi e poi mi ha lasciato girare liberamente per le sale. I quadri appesi erano per lo più ritratti. Ritratti di donne, per essere precisi. Stampe fatte con un materiale che, anche se non so esattamente cosa significhi, definirei acrilico. Mentre passeggiavo tra quei disegni, ho cominciato a farmi delle domande sull'utilità di un quadro. Cioè sul senso che ha comprare un disegno fatto da un'altra persona che probabilmente non si conoscerà mai, che non si saprà mai quando e perché ha disegnato quella cosa. Per non parlare poi del prezzo. Cioè, quel disegno fatto in quel modo, in quel momento preciso della vita dell'autore, assume un valore economico che è accettato socialmente. Voglio dire, se nessuno si scandalizza quando un'opera di Vermeer viene venduta per 3 milioni di euro, ci sarà un motivo, no? Insomma, mentre riflettevo sull'utilità sociale delle opere d'arte, mi sono ritrovato davanti a questo quadro. Una stampa, in cui la protagonista è una donna che tiene in mano una cornetta del telefono. Niente di più. Un'immagine nera, su sfondo bianco, in cui una giovane donna parla al telefono. Devo essermici fermato più a lungo del solito, dal momento che la signora della galleria mi si è avvicinata e con un tono molto discreto mi ha detto: "Questa è l'ultima che abbiamo". Il pezzo che state sentendo si intitola You Can't Hurry Love ed è di un gruppo indie rock svedese che si chiama The Concretes. Lo abbiamo postato anche sul nostro profilo Facebook, se volete. Il legame tra il quadro che vendo oggi e questo brano è proprio l'autrice. Lei è un'illustratrice svedese e ha creato i disegni animati del video di questa canzone. Si chiama Lisolotte Watkins, vive un po' a Stoccolma, un po' a New York e un po' in Italia. O almeno così recita la biografia. Che poi non si capisce mai. Questi, cioè quanto tempo passino davvero in ciascuna città, no? Quelli che vivono tra un posto e un altro, oppure se magari vivono proprio a metà strada, cioè tra Parigi e Londra, oppure tra Milano e New York. Vabbè, in ogni caso, dovunque lei abiti, io alla fine il suo quadro me lo sono comprato. È stata la prima opera d'arte che ho comprato con i miei soldi. Ed è una cosa che vi assicuro fa un certo effetto. Cioè, qualsiasi sia il prezzo dell'opera in questione, pensare di spendere dei soldi per acquistare qualcosa che si appende ad una parete e che ha come unica utilità quella contemplativa, mi sembra una bella sfida alle leggi economiche. Ho appeso questo quadro sulla parete di fianco alla libreria. Era ben visibile da ogni angolo della casa e la finestra alla sua destra lo inondava di luce, o almeno nei giorni di sole qui a Milano. Il quadro è incorniciato in una cornice sottile di legno argento. In basso a destra ci sono la firma dell'autrice e una frazione che indica la quantità di copie che sono state stampate e il numero progressivo di questa. La mia è la 41esima su 200. L'opera non ha titolo, però io l'ho sempre chiamata La ragazza al telefono. Lei è una ragazza dai tratti caraibici. Sopra la fronte una bandana le tiene insieme i capelli lunghi e mossi. Gli occhi sono leggermente allungati e guardano un punto in alto, fuori dal quadro. Le labbra carnose sono socchiuse, ma non per parlare. Sembra l'espressione di chi sta facendo molta attenzione a quello che le stanno dicendo. Tiene la cornetta del telefono con la mano sinistra appoggiata all'orecchio e tutta la testa è leggermente inclinata verso destra, come per aumentare la concentrazione. Il resto è una camicia aperta da cui si intravede un seno nudo. Il tutto nero, su sfondo bianco. La ragazza al telefono mi ha tenuto compagnia in questi anni. A volte non mi accorgevo nemmeno che fosse lì. Altre invece, chissà quando magari la luce entrava dalla finestra e la colpiva con un taglio diverso dal solito, mi sembrava molto presente, intenta a fare qualcosa, a parlare con qualcuno che la faceva sentire un giorno triste, un altro giorno sorpresa, un altro ancora annoiata o preoccupata. A volte ho pensato che dall'altra parte del telefono ci fossi io, a raccontarle le cose che non avevo voglia di dire a nessuno, ma che potevo raccontare a lei, perché in qualunque momento della giornata lei era lì ad ascoltare chi le stava parlando al telefono. Qualche tempo dopo ho trovato su internet l'indirizzo di Liselotte, l'autrice, e l'ho scritto una mail. Lei mi ha risposto dicendomi che la persona di questo quadro esiste, è una sua amica. Si chiama Sara, vive a New York e quando si sono conosciute passava un sacco di tempo al telefono. Non ho voluto chiederle altre informazioni su di lei e tantomeno cosa facesse al telefono, con chi stesse parlando, perché ho preferito continuare ad immaginarmi la sua come una conversazione molto privata. Eppure, nonostante tutto, nonostante la sua utilità contemplativa, nonostante sia la prima opera che mi sono comprato e la compagnia che mi ha fatto, il quadro della ragazza al telefono è in vendita. Il suo valore sul mercato questa volta non lo dico. La base d'asta, però, sono 99 centesimi. Chi invece fa dei disegni e ha voglia di raccontarmeli, 80024 0024. Mettiamo anche gli Smiths qui avendo tutto, sono le 16:21 e mentre su Facebook continuano a scrivermi che cosa secondo loro vuol dire, che cosa sta dicendo questa ragazza al telefono, mi arrivano i messaggi al 349-238-6666 che mi dicono che cosa vedono la mattina le persone che si svegliano. La spiaggia e il mare di Rimini, ad esempio. Dipende, o vedo mia moglie o vedo le tende oscuranti della finestra. Simone, il PC portatile che resta acceso puntualmente tutta la notte. Enzo, apro gli occhi e vedo il cellulare sveglia che lampeggia nel buio totale della stanza. La radio sveglia è quindi l'ora, sento la voce di Milano, di chi sta parlando alla D24. La prima cosa che vedo sono gli occhi ancora addormentati della mia splendida moglie con cui mi sono sposato da 4 mesi, Luca. Io vedo mia figlia, Greta, di 20 mesi. Vedo la tazza del cesso perché mi alzo ad occhi chiusi, Amedeo. Vedo una parete lilla che mi forza ad aprire gli occhi. Tutto quello che vedete la mattina presto, 349-238-6666. Ma torniamo invece a parlare di opere d'arte, o diciamo così, insomma, disegni quantomeno. Con chi le opere d'arte o i disegni gli fa, li ha fatti e mi racconta qual è stato l'ultimo disegno. Luana da Treviso, pronto Luana? Eccomi qua. Eccoti qua, stai bene? Sto bene, grazie. Sto bene. Tu lo fai di mestiere, Luana? Io non stare bene, dico disegnare. No, non lo faccio di mestiere. Ok. Che mestiere fai? Abitualmente. Io sono impiegata. Ok. E disegni quante volte? Guarda, io non ho fatto tantissimi disegni, li faccio in base ad aspirazioni e sentimenti miei personali del momento. Del momento. Mi dici qual è l'ultimo quadro che hai fatto? L'ultimo quadro che ho fatto l'ho fatto per mio marito, anzi mio futuro marito all'epoca, l'avevo fatto 2 anni fa prima di sposarci. Sì. È un quadro che è un quadro astratto, io ho fatto prettamente quadri astratti, prima facevo acquerelle, ma adesso faccio quadri astratti. E questo quadro rappresenta la mia vita. Wow. La mia vita prima, prima di conoscere lui. Ma scusami, visto che già è difficilissimo descrivere un quadro abitualmente, sì, solo a parole, puoi immaginarti quanto sia difficile astratto, però in due parole dimmi i colori e che cosa c'è. Allora, innanzitutto è un quadro di un metro per un metro. Mm. E ha tutti i tasselli, molti tasselli, tutti colorati. I colori rappresentano le fasi della mia vita, se ero felice o se ero, avevo problemi. Ok, ok, ok. Quanti anni avevi quando l'hai fatto, Luana? 32. 32, e quindi c'erano 32 anni della tua vita in quel quadro. Adesso dov'è? Adesso è sempre stato, da quando è stato regalato, nella parete della nostra camera. Bene. Quindi, non frontale come stai chiedendo te, non è la dietro. Prima cosa che vedete, però, quantomeno. No, okay. Non è. E appunto per questo da un mese a questa parte è stato spostato in soggiorno. Benissimo, quindi lo vedete mentre mangiate magari. Luana, sì, grazie mille, buona giornata. Va bene, in bocca al lupo. Prego. Ciao, andiamo a Genova ad Alessandro. Pronto? Pronto. Ciao Alessandro. Ciao, scusa della voce, ma purtroppo le malattie di stagione. Figurati, nessun problema. I miei quadri sono un po' particolari, perché anche io prendo tanti pezzi di tela, li metto sul tavolo e poi inizio a colorare. Ma tanti pezzi di tela cosa vuol dire, scusami? Cioè, cosa vuol dire tanti pezzi di tela? Cioè delle tele già formate oppure... No, prendo dei cartoncini telati di varie misure, compongo la tela sul tavolo e poi inizio a colorare senza un obiettivo... Lo scopo viene piano piano, non ha un... E senti, ha un nome questo genere pittorico oppure? No, non lo so, è una roba tua. Non mi ritengo un pittore, ecco. Ma com'è che ti è venuta questa roba di pitturare a caso delle... Ma soprattutto per rilassarmi, ascolto musica, è un momento di... È una terapia. Sì, mi rilasso, cerco di ragionare su alcune cose, insomma, modo per stare un po' con sé. Va bene Alessandro, ti ringrazio molto. Ciao, buona giornata, in bocca al lupo. Ciao, ciao, andiamo ciao. A Bari da Vincenzo. Pronto? Pronto. Vincenzo, dimmi che tu fai una roba che si può descrivere. Ma guarda, io faccio più che essere un pittore, sono un venditore di prodotti per artisti e dipingo anche. Quindi cioè, cosa sono i prodotti per artisti? Scusami, Vincenzo. Come dici? Cosa sono i prodotti per artisti? Ma guarda, pennelli, colori, supporti per poter realizzare un'opera. E quindi li usi per conoscerli anche, per certi versi? Hai centrato pienamente. Okay. Il mio compito è quello di dipingere per spiegare la potenzialità dei prodotti o delle novità, che altrimenti non sarebbero più novità, ma sarebbero prodotti sullo scaffale. E quindi qual è stata l'ultima cosa che hai fatto? Ma guarda, una natura morta fatta con dei pennelli nuovi. Una natura morta, guarda, stavo per dire, chissà se qualcuno fa ancora come a scuola, mi ricordo, la prima roba che fai a scuola è il chiaroscuro con la natura morta. Infatti, che sono poi, a scuola. Che sono poi dei frutti, no? Sì, infatti ho una zucca enorme. Con una brocca, la zucca e la brocca, spalle. Guarda Vincenzo, ti ringrazio, mi rincuori. Dopo tutto questo astrattismo, la zucca e la brocca, immagino su un tavolo. Eh sì, su un tavolo con dell'altra frutta insieme, fichi e altre benissimo, cipolle. Benissimo, insomma. Vincenzo, ti ringrazio molto, mi hai veramente risollevato la giornata, c'era troppo astrattismo nell'aria. Le ciao. Cipolle non fanno sempre piangere. Beh, buona giornata, grazie mille. Io vi ringrazio, continuate a scrivermi al 349-238-6666. Ringrazio anche quelli che scrivevano ieri i loro desideri, ne è venuto fuori un elenco meraviglioso che troveremo il modo per farlo diventare qualcosa. Magari ve ne chiederò ancora e magari lo pubblicheremo o sul sito o su Facebook. Intanto è tornato come al solito il momento dei miei desideri. Fare il bagno nelle terme di Nagano insieme ai macachi. Scalare il Monte Rosa. Attraversare l'Atlantico su una nave cargo. Lanciarmi col paracadute da 6.000 metri. Sposarmi a Las Vegas. Non importa con chi. Giocare una partita a tennis con Nadal e batterlo. Portare a cena fuori Natalie Portman. Fare un viaggio in mongolfiera. Spaccare a pallonate tutti i vetri di casa dei miei e poi ricomprarglieli. Imparare a suonare la batteria. Incontrare Obama, Mourinho e il Dalai Lama. Fare un viaggio con la Transiberiana. Vedere una finale del Super Bowl. Vedere il Taj Mahal. Attraversare la foresta amazzonica. Vedere il deserto della Patagonia, quello del Gobi e quello del Nevada. Imparare il cinese. Imparare l'arabo. Prendere il brevetto da pilota e quello da sub. E poi imparare a camminare sul filo. La prima cosa che vedo la mattina quando apro gli occhi sono il torrazzo del campanile del Duomo di Cremona. Max, vedo un albero, vedo la mia Vespa, vedo i miei cavalli. Io invece vedo tutti quelli che devo ringraziare anche oggi, che sono Laura Faggin, Tiziano Bonini, Alessandro Genovesi e Paolino Corleoni. La storia di domani è quella di una piccola raccolta di libri. Domani vendo 4 guide turistiche su New York. Come tutti gli oggetti ovviamente sono usati, ma soprattutto sono sottolineati e annotati, e quindi secondo me valgono di più. Quella di oggi era la storia del mio quadro. Per vederlo e comprarlo c'è il sito radio24.it. Per quanto mi riguarda, invece, anche con questo quadro, quello di oggi, ho chiuso. Perché alla fine, pure un quadro, è sempre e solo un quadro. Love, love, love.